Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Ben ritrovati, questo è l'ultimo appuntamento di Nessun Luogo è Lontano. Vi porgo i saluti anche da parte di Antonio Talia, Eleonora Ragona, Silvia Malnati, che hanno scritto con me anche quest'ultima puntata, Gianmarco Ferronato, che le darà musica e ritmo. Anche quest'oggi potete porre domande o commentare al 349-238-6666, il numero vale, ve lo ricordo, sia per i WhatsApp che per gli SMS. Poi potete cinguettare l'account Giampaz, ovvero Nessun Luogo 24, e infine scriverci un post sulla pagina Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. La prima pagina di Nessun Luogo Lontano di quest'oggi ci porta a Caracas. Ciertamente al final de la marcha un gruppo de manifestantes quedó rezagado y comenzó un fuerte enfrentamiento con funcionarios de cuerpos policiales. Tanatots en el beat. Ajá. Bienvenidos a Caracas. Okay. Yeah. Vi porto a Caracas perché è il momento di tracciare un bilancio di quella che ieri è stata una grandissima manifestazione, grandissima in termini numerici. Capiremo adesso se efficace anche dal punto di vista politico. Almeno 30.000 persone hanno sfilato nella capitale venezuelana, 100 feriti in scontri con le forze dell'ordine e una decina di attivisti arrestati. Cosa è successo a Caracas? Cosa sta succedendo? Cosa potrà succedere? Sono le tre grandi domande che ci poniamo e che giro immediatamente a Roberto Darini, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Roberto, ben ritrovato a Nessun Luogo. Buongiorno a tutti voi. Allora, cosa è accaduto? Una grande marcia, era stata annunciata da tempo, questa toma de Caracas, la presa di Caracas, tutto sommato piuttosto pacifica, perché a parte qualche incidente, ma visti i numeri, il bilancio poteva essere decisamente diverso. Che cosa significa questa marcia e cosa può accadere adesso? Questa marcia è stata una marcia importante, come ce ne sono state altre. In verità, ormai però da anni si susseguono quasi quotidianamente delle marce, delle grandi manifestazioni, senza che però sia dato seguito alle loro richieste. Ora la palla passa al Comitato Nazionale Elettorale, è da lì che dovrebbe arrivare la notizia più importante, ossia l'accettazione o meno del referendum revocatorio contro il presidente Nicolás Maduro. Sono state raccolte delle firme già da tempo, il Comitato Nazionale Elettorale deve stabilire una data e questo è l'aspetto più cruciale. Queste manifestazioni che si susseguono, quella di ieri è particolarmente importante perché giustamente ricordavi tu, c'è questo referendum che incombe politicamente sulla nuca, no, di Nicolás Maduro. Queste manifestazioni per il momento non sono riuscite per esempio a liberare uno dei leader dell'opposizione di Voluntad Popular, Leopoldo López, che è tuttora in carcere dopo le manifestazioni di un paio di anni fa. Questo diciamo mostra forse armi un po' spuntate da parte dell'opposizione venezuelana, sei d'accordo? No, non sono d'accordo, nel senso che effettivamente può essere persino una fortuna che in una situazione così critica non siano le manifestazioni a generare dei ribaltoni, che dobbiamo seguire delle procedure istituzionali e quindi nonostante l'insipienza del presidente Nicolás Maduro e i gravi problemi che affliggono il Venezuela, è meglio seguire per evitare spargimenti di sangue dei canali istituzionali. Quindi sì, sono state raccolte delle firme, quindi ora speriamo che questo referendum si effettui. La data clou è l'8 gennaio 2017. Se il referendum viene fatto entro l'8 gennaio 2017 e Maduro perde, cioè il referendum revocatorio alla maggioranza, lui è costretto a uscire di scena e verranno a quel punto indette nuove elezioni. Sì. Diversamente, dal 9 gennaio in avanti, anche se il referendum viene fatto, lui decadrà ma entrerà al potere il suo vicepresidente e quindi nella sostanza non cambierà molto. Questo perché? Perché è passata metà mandato e quindi al di là del metà mandato non verrebbero effettuate più nuove elezioni, ma si procederebbe fino a per altri due anni al governo con il vicepresidente in carica. Chiarissimo. Ricordo anche per dovere di completezza di questa breve fotografia che il paese è in preda a una crisi economica, alimentare, sanitaria ormai al limite della gestibilità. Ad aggiungere, come dire, pepe a questa situazione, ieri parecchi giornalisti internazionali sono stati rimbalzati all'aeroporto di Caracas, l'inviato di Le Monde, una troupe di Al Jazeera. Questa stretta, questa chiusura da parte di Maduro rispetto all'informazione certamente non gioca a suo favore in ambito internazionale. Perché se ne può fregare, tra virgolette, perdonatemi il linguaggio un po' prosaico, insomma. Dunque, è indubbiamente vero che ci sia una maggiore pressione diplomatica sfavore di Maduro. È anche vero che comunque lui in America Latina conta su alleati ancora importanti. Stiamo parlando naturalmente Cuba, che in America Latina continua ad avere un peso rilevante, di Bolivia e quindi del presidente Evo Morales, di Correa, quindi lui comunque ha delle simpatie, degli appoggi internazionali, e anche in Europa, nonostante siano state già effettuate delle pressioni, non tutti vorrebbero procedere con una spallata, perché per ragioni ovvie potrebbe diventare pericolosa. Fino a poco tempo fa anche il Brasile stava dalla parte di Maduro, il Brasile e Dilma Rousseff, ora però è stata condannata per impeachment, quindi il Brasile di Michel Temer è naturalmente meno pro Venezuela di Maduro. Questo è lo scenario internazionale. Naturalmente gli Stati Uniti sono pesantemente a sfavore di Maduro, questo è un po' il quadro delle alleanze, sì. Anche se invece la Cina, che continua ad avere un ruolo geopolitico sempre più importante, fino adesso non ha affatto screditato Maduro. Grazie mille Roberto Darin per essere stato con noi in quest'ultimo appuntamento in Nessun Luogo. Buona giornata, buon lavoro Roberto. Grazie. (349) 238 6666 per domande e commenti. Cercate di spiegare, dice Ale da Padova, che in Venezuela la situazione sociale è come in Europa nel Medioevo. Abbiamo fatto uno speciale di Nessun Luogo proprio sulla crisi, abbiamo raccontato nel dettaglio come i beni alimentari non arrivino, come insomma il problema sia estremamente serio. Li trovate queste analisi su radio24.it, c'è il podcast, scaricatevelo, così come quest'ultimo appuntamento di Nessun Luogo. E adesso cambiamo decisamente argomento e iniziamo a raccontarvi questa storia dando un po' di numeri. Ogni secondo più di $3,000 nel mondo sono spesi in pornografia. Ogni secondo ci sono 30,000 visualizzazioni porno nel mondo. Ogni 39 minuti l'industria statunitense, per dirne una, carica un nuovo video online. Oggi a Nessun Luogo Lontano vi raccontiamo il potere del porno. L'essere umano, raccontava in un bel pezzo di Atlantic, da sempre disegna immagini di sesso, ma è del 1600 circa che quelle immagini iniziano a rientrare in questo ampio termine, ampio dal punto di vista semantico, che usiamo ormai da tempo. Sì, il termine è pornografia. Da un lato, dal 1600 in poi, si iniziano a rompere certi tabù, dall'altro si va a ricercare proprio l'eccitazione. Da lì a pensare di fare i soldi su questi due elementi il passo fu breve, e poi arrivò l'industria del porno, con anche alcune sue storture, alcune sue dinamiche. Vi sono stati casi di sfruttamento del lavoro, c'è il caso della pirateria, ci sono impatti sociali fondamentali da analizzare. Oggi vi proponiamo un viaggio proprio in questa industria attraverso 4 continenti. Però prima di iniziare questo viaggio dobbiamo, come dire, rivelarvi che abbiamo avuto serie difficoltà nel trovare i dati. Mancano dati affidabili, soprattutto dal punto di vista economico, perché un bel pezzo di questa industria, lo immaginate, lavora sotto traccia e spesso ha contributi amatoriali, per cui è molto molto difficile stimare quanto valga l'industria pornografica nel mondo. Secondo una stima, e forse lì è attendibile perché è un operatore del settore, Fabian Thielmann è un imprenditore che gestisce vari siti per adulti, lo soprannominano il re del porno. Questa intervista è stata riportata all'Economist, ebbene il prestigioso settimanale britannico riportava

censura e utilizzo. Da vari dati, da varie classifiche, espulciando soprattutto, è una cosa che potete fare anche voi con Google Analytics, è estremamente interessante, si va a immediatamente evidenziare come nei paesi in cui c'è più censura spesso c'è più ricerca. Non pensiamo subito ad alcuni paesi musulmani che molto spesso sono al top della classifica per ricerche, Pakistan, Arabia Saudita, ma poi vi racconto una storia sull'Arabia Saudita. Lo stesso stato statunitense dello Utah, ad esempio, dove c'è un'alta concentrazione della comunità mormone, lì dove c'è particolare censura e come dire pudicizia nei consumi, il porno è assolutamente vietato, ebbene lì vi sono dai motori di ricerca un grandissimo numero di ricerche. Pensate poi che in molti paesi le pene per il possesso di materiale pornografico sono detenzioni lunghe, anche di lunghi anni, ed è il caso dell'Africa. Allora, 349-238-6666, ci sono un po' di domande. Un ascoltatore dice: se ho capito bene, il porno diventa più legittimo se lo guardano anche le donne. No, non credo sia una questione di legittimità, però io non sono né un sociologo né un antropologo. È una questione di parità di genere e il prodotto va a rispettare questa parità e questa uguaglianza di genere anche nel trattamento estetico, e quindi per questo c'è una nuova ondata di registe donne che realizzano prodotti per il mercato femminile, e questo fa parte di un processo di emancipazione anche culturale. Ma fatemi tornare in Africa e in particolare in Nigeria. Perché in Nigeria? Perché è molto interessante, utilizzando alcuni degli strumenti che Google fornisce, si va a vedere che il numero delle ricerche di materiale pornografico ha recentemente superato quello statunitense e quello europeo. Lo aveva detto recentemente un social media strategist e un esperto di internet e social media, Subomi Plumtre, che era anche stato intervistato dalla BBC, e questo ricercatore ha anche sottolineato come, per esempio, anche tematiche legate al mondo omosessuale, quindi anche film gay, erano particolarmente ricercati in Nigeria. Quella Nigeria che, ve l'abbiamo raccontato spesso a Nessun Luogo Lontano, adesso ha un presidente musulmano che vive il problema di Boko Haram nel nord, in generale la società africana mal tollera certe espressioni anche eterosessuali, ma in pubblico, insomma potete immaginare come questo dato del numero delle ricerche di materiale pornografico ci racconti molto della società africana. Chi l'ha raccontato molto bene è Mikołaj Radikli, che è un giornalista di origine polacco, e ha scritto un bellissimo pezzo sul Mail Guardian, che è un giornale sudafricano. La prima domanda è stata questa: di recente i dirigenti degli studi cinematografici di Nollywood, siamo in Nigeria, la seconda industria cinematografica al mondo, anzi perdonate, la terza dopo Hollywood, Bollywood che è quella indiana, e Nollywood che è quella in Nigeria. Ebbene, questi dirigenti degli studi hanno inviato una lettera intimando di interrompere la produzione di film porno. Qual è il rapporto tra la Nigeria e la pornografia? La Nigeria è un po' un caso a parte, proprio perché c'è Nollywood dove si producono film da molto tempo e quindi possiede un vantaggio competitivo rispetto ad altri paesi africani. Gli studios nigeriani sono già molto avviati, quindi produrre film erotici rappresenta solo un passo in più rispetto a un'industria già consolidata. La lettera a cui fate riferimento è stata spedita a causa della nuova presidenza Buhari, il nuovo presidente, che è un musulmano ed è molto più severo e conservatore rispetto al suo predecessore Goodluck Jonathan. Jonathan era un cattolico che si è dimostrato molto più tollerante sull'industria del porno, fiorita sotto la sua presidenza, mentre immagino che l'attuale governo nigeriano stia cercando di interrompere le produzioni perché sono maggiormente contrastanti con l'Islam. Un altro caso africano interessante è quello del Kenya e dell'Africa dell'Est. In Kenya, Uganda, Tanzania è illegale aprire un sex shop ed è illegale importare qualsiasi prodotto pornografico. È un tabù e i governi sono molto chiari nelle loro posizioni sul tema del sesso in pubblico, del sesso ripreso su telecamere. Tuttavia, la loro è un po' un'ipocrisia. A Nairobi, Kampala e Dar es Salaam, le strade sono piene di prostitute, specialmente nelle zone della vita notturna, ed è impossibile non notarle. La polizia sa tutto sull'argomento, tutti sanno tutto e nessuno fa nulla. Alla fine la prostituzione è accettata e penso che ogni nazione in via di sviluppo abbia questo problema. In ogni paese che sta crescendo economicamente cresce anche la prostituzione. Ora, il Kenya non ha mai avuto un'industria cinematografica come quella di nigeriana e non produce porno. Tuttavia, i siti web keniani sono pieni zeppi di avvisi di incontri con prostitute o anche di pubblicità di bordelli, e questi siti non sono bloccati. Il Kenya sta crescendo economicamente a ritmi velocissimi, è il paese con il maggiore tasso di crescita in Africa, specialmente per quel che riguarda la classe media, e ciò sta determinando un aumento della domanda di pornografia. Ritengo quindi che i governi di Kenya, Uganda e Tanzania dovranno presto avviare delle modernizzazioni e si mostreranno un po' meno ipocriti. Basta guardare le statistiche sugli abitanti dell'Africa dell'Est che cercano sesso e pornografia sul web. Sono dati molto interessanti. Allora adesso l'informazione finanziaria e poi a nessun luogo continueremo a raccontarvi il potere del porno. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun luogo è lontano. Non follow mana gele yaima, kia nyenyini sanfe, kanyenyini dubuma, kanyini sani dubuche namanoya, ala file. Ulala, Johnny Beko Kola. Ben ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Stiamo raccontandovi il potere del porno, viaggiando attraverso quattro continenti e raccontandovi, in vero con difficoltà, quanto vale questa gigantesca industria. Se è vero che ultime statistiche dicono che varrebbe dai 40 a 50 miliardi di dollari all'anno, è anche vero che un altro studio della Forrester Research lo dava a 10 miliardi per il solo mercato statunitense, quello cinese 27, quello sudcoreano 25, insomma cifre che oscillano e che ballano, e che la stessa Shira Tarrant, che è una professoressa alla Cal State Long Beach, quella che ha scritto The Pornography Industry, ciò che ognuno dovrebbe sapere sull'industria del porno, la prima cosa che ha svelato nel suo saggio è: attenzione, perché i dati sono estremamente difficili da rinvenire, un po' perché è un'industria che ha degli aspetti sotterranei, un po' perché c'è internet, che è un fenomeno abbastanza recente per ciò che riguarda la pornografia, che è andato un po' a sparigliare le carte e a riformare, a ridisegnare appunto l'industria cinematografica. Ma in questa puntata in Nessun Luogo ci stiamo anche chiedendo qual è il potere sociale e anche addirittura, pensate, geopolitico dell'industria pornografica. Siamo in Nigeria, stiamo cercando di comprendere cosa emerge dai dati che dicono che nei motori di ricerca nigeriani la ricerca di contenuti porno ha superato sia gli Stati Uniti che l'Europa. E lo stiamo facendo grazie a Mikołaj Radlicki, che è un giornalista di origine polacca, che ha scritto un bellissimo articolo sul Mail & Guardian, quotidiano sudafricano. Da questi dati che cosa emerge? Sentite il giornalista. Nigeria has realized that instead of... La Nigeria, ad esempio, ha capito che siccome le statistiche mostrano che moltissimi nigeriani vanno alla ricerca di porno occidentale, si poteva costruire un'industria nazionale del porno, perché i nigeriani vogliono guardare pornografia che rappresenta nigeriani e non gente di altri paesi. Quindi la Nigeria è un passo avanti, proprio perché rispetto ad altri paesi africani ha smesso di essere così ipocrita. Poi, ovviamente, ci sono casi estremi come la Somalia, parliamo di una società musulmana estremamente conservatrice, nella quale già mostrare una gamba è considerato haram, ossia proibito dalla legge islamica, ma nello stesso tempo si sa che a Mogadiscio c'è un cinema clandestino che trasmette porno. In generale, in diversi paesi, la gente sta diventando sempre più aperta e sempre meno ipocrita su quello che fa in privato. Intanto al 349-238-6666 c'è anche chi mi chiede il nome della cantante di... che state sentendo, è Rokia Traoré, che è una grandissima interprete maliana che ci sta facendo compagnia in questa tappa tutta africana di questa pagina di Nessun Luogo è Lontano. Sentite ancora la voce del giornalista polacco Mikołaj Radlicki, Il fatto che il porno venga soprattutto prodotto in Occidente spinge in qualche modo una certa opinione pubblica o i governi dei vari paesi africani ad accusare l'Occidente di costumi corrotti. Sentite cosa dice. La maggior parte dei paesi africani è molto religiosa, che siano cristiane o musulmane, si tratta di società profondamente tradizionali e conservatrici. I governi sanno che molti dei loro elettori seguono i dettami religiosi e sfruttano la situazione. È molto difficile per loro uscire da questo circolo vizioso e liberalizzare la pornografia o il mercato del sesso, perché significa automaticamente perdere elettori. E così sentite come immediatamente anche l'industria pornografica e il consumo di quel mercato diviene una formidabile e utilizzabile leva politica. Poi c'è un nome su tutti che è, per ciò che riguarda il mercato nigeriano, Afrokandi, la più famosa pornostar africana che di recente è diventata anche produttrice. Sentite. Sì, Afrikandi è diventata produttrice e la sua è una specie di improbabile storia di successo. Lei è un esempio di come l'industria del porno si può sviluppare in Africa in certe condizioni e circostanze. E la Nigeria ne è il principale esempio, insieme a Sudafrica. Ma il Sudafrica è un caso diverso, perché è molto sviluppato rispetto ad altre nazioni africane ed è molto più tollerante. Il matrimonio omosessuale, ad esempio, è legale e quindi non farei paragoni tra Sudafrica e altri paesi. La Nigeria è il leader, e questo perché la maggior parte degli africani guarda i film di Nollywood ancora prima dei film di Hollywood. La loro produzione è enorme, quindi se assisteremo alla nascita di una vera industria del porno africana, succederà senz'altro in Nigeria, qui altri paesi che acquisteranno da Nollywood, anche se in Nigeria non è completamente legale né completamente illegale produrre porno, c'è più una zona grigia. Uno sviluppo della pornografia in Africa dipende soprattutto da come andranno le cose in Nigeria, e se adesso si diffondono sempre più voci secondo le quali il governo vorrebbe bloccare il porno nigeriano, allora nessuno sa cosa accadrà dopo. Allora, fra le istruzioni per l'uso di questa ultima puntata di Nessun Luogo Lontano, vi ho anche detto che è molto difficile quantificare il mercato della pornografia, un po' per i motivi che vi ho detto, ci sono delle produzioni sotterranee, e nel caso africano è un mercato che vive spesso anche di contrabbando, tra virgolette. Cerchiamo però con questo giornalista di dare una dimensione, di quantificare quanti film porno vengono prodotti in Africa e vengono caricati online. Sentite. Non si sa quanti film porno vengano prodotti in Africa, le statistiche non sono molto affidabili e la maggior parte di questi film non vengono dichiarati sui registri ufficiali. Si tratta di produzioni molto piccole e semiclandestine, cercano di non mostrare troppo di quello che fanno ai dirigenti degli studios. La maggior parte di questi porno prodotti a Nollywood poi vengono caricati online, ad esempio ci sono siti keniani che collegano direttamente a siti nigeriani dai quali è possibile guardare questi film porno. Come dicevamo, è un prodotto consumato dalla crescente classe media africana e per questo ha enormi potenzialità. E con questa ulteriore spiegazione di come anche lo sviluppo dell'industria pornografica sia un chiaro indicatore della crescita anche economica di certe società, adesso andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi proseguiremo il nostro viaggio. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Nessun luogo. Nessun luogo. È lontano. Beh, Ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Ultima pagina dell'ultima puntata di Nessun Luogo è Lontano, in cui vi propongo provocatoriamente un viaggio attraverso l'industria pornografica nel mondo per capire cosa. Beh, che innanzitutto ha un valore, è un valore difficilmente quantificabile, ma comunque elevato, tra i 40 e i 50 miliardi di dollari ogni anno. Soffre o vive dinamiche molto simili a qualsiasi altra industria: delocalizzazione, crollo dei prezzi, dei costi, della manodopera, pensate. Sì, ebbene sì, anche le prestazioni sono sempre più sottopagate sui set. E vive anche start-up, nuove industrie che sorgono, pubblici da andare a cercare, da andare a cacciare, e il fenomeno internet che ha impattato anche su questa industria. Ma poi, e ciò che importa a noi di Nessun Luogo Lontano, ha degli profondi impatti sociali in tutti i continenti, e anche e soprattutto delle potenzialità politiche e geopolitiche. Una delle aree, se volete, un po' più sensibili e interessanti è il Medio Oriente. Adesso parliamo di questo. Perché anche in Medio Oriente, ma più in generale nel mondo arabo, c'è un forte consumo di materiale pornografico. Ovviamente ufficialmente questo non avviene, pensate a casi come l'Arabia Saudita. Non sto parlando di produzione in quel caso, ma sto parlando di fruizione. Su quella, ad esempio, Riyadh, il governo saudita, sul quale ruolo abbiamo fatto uno speciale di Nessun Luogo proprio pochissimo tempo fa, ebbene, usa la mano pesante. Recentemente ha hackerato e poi disattivato 9.000 account Twitter che erano collegati alla pubblicazione di materiale pornografico, e hanno arrestato poi altrettante persone che detenevano questi account. Questo a seguito di una serie di indagini da parte della Haya, che è la polizia religiosa saudita. Come l'Africa ha due centri di produzione, uno in Nigeria, quello più grosso se volete, ma poi c'è anche il Sudafrica, anche il mondo del Medio Oriente ha quell'area lì, ha due centri di produzione in particolare, uno è soprattutto quello turco e poi quello libanese, ma poi da lì il consumo, grazie alla rete, grazie a internet, come immaginate, si propaga negli altri stati. Allora, 349-238-6666, se volete commentare questo provocatorio viaggio dell'ultima puntata in Nessun Luogo, il potere del porno, il lato oscuro, se volete, la sua economia, la sua industria, la sua leva potenziale politica. Tra poco vi porterò anche in Estremo Oriente, perché lì dobbiamo proprio affrontare quest'ultima parte, un pochino più delicata, se volete. Allora, andiamo a Pechino, via! E se il porno fosse anche una leva geopolitica, andiamo in Cina, perché la Cina, lo sapete, l'abbiamo spesso raccontata in questa edizione di Nessun Luogo è Lontano, è un paese campione di censura, anche e soprattutto online, lo sapete, ha i suoi motori di ricerca, il suo Amazon, il suo Facebook. Beh, lì ovviamente, come potete immaginare, produrre film è illegale, lo è fin dal 1949, quando la nascita della Repubblica Popolare Cinese disse è contrario alla morale. E allora cosa fa? Beh, pensate, 1,5 miliardi di persone, è un mercato piuttosto vasto. Importa materiale pornografico da Giappone e da Hong Kong. Ed è interessante notare due cose. Da un lato, il Giappone è tuttora un rivale culturale, economico e geopolitico, mentre con Hong Kong c'è un rapporto conflittuale, ricco di chiaroscuri. Si pensi alle rivolte del 2014, quando Pechino tentava di controllare le spinte della piazza dei movimenti giovanili del suo territorio, suo tra virgolette, perché è un territorio semi-indipendente. Ebbene, ci sono un paio di produzioni che sono interessanti. Da un lato, film di propaganda, in cui sono non propriamente film pornografici ma erotici, che rievocano il massacro di Nanchino e mettono in scena gli stupri dei soldati giapponesi sulle donne cinesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Invece sul versante più strettamente porno c'è una filmografia che racconta una donna giapponese sottomessa che è diventata in rete per i giovani cinesi fruitori di porno, un leitmotiv che va a sottolineare l'inferiorità dei giapponesi e spinge poi, c'è proprio un'ondata sui social e internet, spinge i cinesi a commenti molto accesi e atteggiamenti di superiorità appunto verso i giapponesi. Insomma, la donna sottomessa giapponese è entrata facilmente in un certo immaginario di una certa fetta della popolazione maschile giapponese. Poi però c'è qualcuno che ha tentato di fare pace, come Sara Oi, che è una pornostar che ad esempio raccolse fondi per il terremoto del Qinghai del 2010, o nel 2012 scrisse una calligrafia per riavvicinare i due paesi, insomma, con tanto amore, se mi permettete l'espressione un filino prosaica. Allora andiamo a sentire l'ultima voce di questa puntata, che è Aiki Segawa, attivista di Lighthouse No Profit Organization, che lotta contro il sfruttamento sessuale. Attenzione, perché qua si svela che vi sono stati casi di abuso e violazione dei diritti nell'industria del porno giapponese. Sentite Segawa. Ad alcune ragazze in rete viene chiesto: vuoi diventare una modella? Vuoi partecipare a uno show in televisione? Oppure vuoi un lavoro ben remunerato? Poi vengono incastrate. Viene loro fatto firmare un contratto, per esempio quello di un'agenzia per modelle. Se la ragazza si rifiuta di firmarlo, viene rinchiusa in una stanza per ore e ore senza poter uscire, finché non si decide a sottoscriverlo. Pochi giorni dopo, la ragazza riceve una chiamata che le comunica il giorno delle riprese. Il giorno prima le viene consegnato il copione e viene informata per la prima volta che si tratta di un film porno. La ragazza di solito è scioccata e si rifiuta di recitare la scena, ma in moltissimi casi l'agenzia porno la minaccia di farle pagare migliaia di yen con l'accusa di aver violato il contratto. A quel punto la giovane non ha modo di uscire da questa situazione. Questo è un esempio, ma ci sono moltissimi casi del genere. Altre volte le ragazze vengono riprese mentre stanno subendo uno stupro e il video viene trasformato in un filmato porno che viene venduto su larga scala. Tutto questo viene ovviamente fatto contro la loro volontà. Il potere del porno in quest'ultima puntata di Nessun Luogo è Lontano. Siamo arrivati in Estremo Oriente, in Cina, dove assume i contorni pieni di leva politica e geopolitica, di propaganda addirittura. E poi un caso più vizioso, ovviamente, che non è certamente la regola, per carità. L'industria ha una sua correttezza, una sua morale, però in questo caso giapponese che ci racconta Aiki Segawa, attivista di Lighthouse, vi sono state delle storture. Quante ragazze che aspiravano a entrare in quell'industria sono state vittime di abusi? Sentite. There have been more than 170 victims of forced appearance in pornography. Oltre 170 ragazze che sono state costrette a girare porno si sono rivolte alla nostra organizzazione per chiedere aiuto, la prima nel 2012. Ma riteniamo che questa sia solo la punta dell'iceberg. Questa caccia di giovani attrici porno per i film per adulti è un fenomeno iniziato molto tempo fa. Ci sono state donne che hanno raccontato di essere state vittime di questo sistema anche 8-10 anni fa. Solo da poco le persone si sentono libere di confidarsi e chiedono aiuto alla nostra associazione. Per ora ho sempre solo parlato di ragazze, ma il 10% delle vittime sono giovani uomini, quindi sia i ragazzi sia le ragazze sono potenziali vittime. E qual è il quadro normativo che regola l'industria pornografica in Giappone? Sentite Aiki Segawa. It is true that 20% of the entire porn agency. È vero che il 20% delle produzioni porno non fanno parte della Intellectual Property Promotion Association e quindi sono libere di fare più o meno tutto quello che vogliono. Ma al di là di questo, il vero problema è che non esiste una legge o una norma speciale che impediscano di reclutare forzatamente le ragazze nella produzione dei film porno. Penso che sia importante adottare nuove leggi per disciplinare la materia e imporre non solo alle agenzie porno, ma anche ai registi amatoriali, di assicurarsi, per esempio, che le attrici recitino di loro volontà e impediscano di multarle se decidono di cancellare la propria apparizione in un film. The actresses to pay if they wish to cancel their appearance. You make me feel like, oh, you make me feel like 1, 2, 3, 4. E poi ci sono stati malauguratamente casi anche di suicidio. C'è stato un legame tra lo sfruttamento nell'industria del porno e questi casi. Sentite ancora l'attivista giapponese. I cannot say that there is a connection, but non posso dire se ci sia un diretto legame tra gli abusi e i suicidi, però posso affermare che una volta che la vittima sa di essere finita in un video porno che circola su internet, è molto difficile per lei uscire in società e trovare un lavoro e anche sposarsi, avere figli, una famiglia. Le vittime vivono nel terrore che qualcuno incappi in rete nel filmato in cui sono state costrette a recitare. È un grande stress mentale e può capitare che porti al suicidio. Questo mostra tutta la gravità del fenomeno. 2 delle 170 vittime che si sono rivolte a noi si sono suicidate. E con la voce di Aiki Segawa chiudiamo anche quest'ultima pagina, in vero, dai toni drammatici di Nessun Luogo Lontano, in cui vi abbiamo raccontato il potere del porno ed è anche un po' il nostro modo di darvi commiato, quindi titoli di coda. Con i quali ringrazio Antonio Talia, Eleonora Ragona, Silvia Mannati che hanno confezionato in queste lunghe 5 settimane tutte le puntate, i temi di Nessun Luogo è Lontano, i vari registi che si sono succeduti. Oggi Gianmarco Ferronato ci ha dato una mano nel racconto, voi per essere stati all'ascolto con grande attenzione e grande interesse. Io cosa faccio? Beh, come al solito, spengo il microfono, prendo lo zaino e vi saluto ricordandovi che Nessun Luogo è Lontano.